corrotto e decrabile, l'universo avveleni per me, avveleni per me. Roditor, che compensi il tal guido, dell'amico tuo privo l'ave. Oh.